Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Ed eccomi tornata finalmente a voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Anch'io prigioniera per diversi giorni della nube vulcanica, questo imprevisto, insomma, ormai l'ho studiato anche dall'estero, era un po' difficile, si prevede, c'è questa vocazione umana, più una tensione che una vocazione in realtà, a capire per tempo cosa può succedere, a prevenire. In realtà poi i vulcani fanno un po' quello che vogliono. E quindi con voi devo confessarvi che appunto sono riuscita a rientrare giusto ieri. E quindi sarei piuttosto, contenta, ecco, di sapere a maggior ragione da voi, non solo come ogni sabato quando ci ritroviamo, quali sono le notizie della settimana che vi hanno colpito. Informate anche me stessa, perché io ho cercato di rimanere aggiornata, ma voi ovviamente dall'Italia ne saprete di più. Quindi sempre il numero verde per raccontarmi le vostre riflessioni sulle notizie della settimana, quelle che scegliete liberamente e personalmente, 800 24 00 24. Quindi lo ripeto, il numero verde è 800 24 00 24. Sono dai 3 giorni che volevo stare a Londra, diciamo che ne ho passati 11-12, e volevo chiedere la cittadinanza onoraria. Poi ho detto vabbè, rientriamo, va che c'è la trasmissione. Eccomi qui, aspetto quindi le vostre telefonate, aspetto di passare ancora come sempre un'ora con voi sino alle 15 per dirci insieme un po' quali sono i fatti, quali sono le riflessioni. E usualmente, come sempre, anche l'ospite, un opinionista estemporaneo, come lo chiamo io per oggi, che è, signore e signori, Thomas Leoncini. Fai un ruggito, Thomas? Ah, mi aspettavo un piccolo ruggito. No. Ci sono ancora, perché essendo Leoncini sono ancora piccolo. Quindi quando diventerò ruggitino, leone, te lo faccio. È un leone poeta, un leoncino poeta, Thomas Leoncini, che è stato definito un vero e proprio caso letterario su internet. Sapete che ormai da tempo il mezzo di internet, del web, permette anche di diffondere le proprie riflessioni, le proprie idee, e di avere insomma anche una certa popolarità, come è successo a Thomas. Dimmi, Thomas. Sì. È una manna dal cielo l'esistenza di internet, perché permette obiettivamente alle persone che magari non hanno raccomandazioni o comunque non hanno spinte che oggi servono soprattutto a chi vuole emergere, per autopromuovere sostanzialmente, quindi avere una sorta di meritocrazia, se vogliamo. Io per fortuna dopo 6 anni posso dire che qualcosa si è mosso. Questo... E io invece posso dire, allora, agganciandomi a questa, insomma, parere così positivo, questo applauso per quanto riguarda internet e i mezzi di, appunto, legati alla tecnologia, al web, che anch'io effettivamente da Londra sono riuscita a rimanere aggiornata sulle cose, a capire anche i siti delle compagnie aeree, come si poteva tornare grazie proprio al web. È una cosa straordinaria. Io che lo sempre un po', certo, per quanto riguarda il mio mestiere, il nostro mestiere, è stata una grande rivoluzione, ma ancor più quando si è un po' in difficoltà, come è successo a me da Londra. Certo, non ero nel deserto, però insomma, rimanere bloccati all'estero, non sapere bene cosa succede, come fare, come riuscire ad entrare, eccetera, direi che è un mezzo straordinario. Quindi Thomas Leoncini, ultimo, Thomas abbiamo detto poeta, paroliere, da tempo è entrato nel mondo della musica. Scrive però poesie, anche se tu, Thomas, definisci le tue canzoni senza note, in realtà, queste poesie. Sì, ti dico, se mi permetti, proprio l'inizio, la prima pagina del libro La nostra vita è ora, La nostra vita è ora, pubblicato da Cavallo di Ferro. Esatto, e la prima pagina dice: non sono un poeta, non è un libro di poesie. Sono piuttosto un narratore che si limita a descrivere la poesia che già gli vive attorno. Cioè, sostanzialmente questo per dire che nonostante tutte le brutture che vediamo nella nostra società e le cose brutte, insomma, le cose, c'è comunque sempre questa scintilla di poesia che tutti potremmo essere capaci di descrivere. Quindi possiamo tutti essere narratori di poesia, perché bisogna saperla scovare. Più passa il tempo, la mia idea è questa, che più si va avanti nel tempo e più è difficile scoprirla, perché c'è sempre più pattumiera, però c'è sempre, insomma, la possibilità di imparare a narrarla, di scovarla, questo... insomma, di darle parola. Tra l'altro vado a prendere subito una delle tue poesie, appunto, di questo libro La nostra vita e ora. Sesso e amore, il titolo però accattivante, è: se io sapessi cosa mi manca, passerei la vita a cercarlo, ma il non sapere cosa mi manca può far sì che io riesca a trovarlo. Quindi, come si dice quando uno è senza amore, dice: no, non ti mette, non ti accanire lì, intestardire, a cercare la persona. Prima o poi ti capita lì davanti al supermercato, è così? Questo sì, è un po' il senso. Ma questo è, esatto, questo poi si collega, Roberta, al fatto che poi è anche il titolo. Cioè, poteva essere un titolo anche proprio stesso La nostra vita è ora. Perché? Perché se noi stiamo a pensare sostanzialmente tutta la vita a quello che vorremmo, alla fine la vita finisce, noi siamo un po' gli ospiti, no? Noi siamo gli ospiti di questo mondo e quindi... l'importante comunque è, secondo me, seguire questo flusso che è l'esistenza, però chiedendo le cose senza più che altro diventarne matti per raggiungerlo, anche tipo una storia d'amore che non si... e poi anche il non cercare, qui parliamo d'amore o sentimento, una persona ti porta il più delle volte a essere cercato, molto più che magari stando dietro comunque con insistenza. Insomma, comunque vale sempre anche aiutati che il ciel t'aiuta, insomma, un minimo, un po' di intraprendenza, no, nelle cose. Però, vabbè, insomma, chi è fatalista, chi è meno, chi è una via di mezzo. In ogni caso, chiedo a te, Thomas Leoncini, prima vi do giusto così un assaggio, un input sulle tante notizie di questa settimana, delle quali vi prego rendermi partecipe in maggior ragione questa puntata, visto che sono stata prigioniera della nube fino a ieri all'estero, e però vi butto qui e lì, insomma, naturalmente il vulcano in primis, ma poi anche quello che sta succedendo da un punto di vista politico così, così forte in questo momento, anche destabilizzante, no? Dice qualche analista politico, questa rottura ormai si può dire quasi consumata per usare un eufemismo, tra Berlusconi e Fini, quello che accadrà con Bossi che chiede, dice, o riforme o nuove elezioni. Poi per allontanarci invece dalla politica, che so se vi interessa il caso Balotelli, quello che è successo ieri, prima le scuse, poi invece Moratti che lo allontana dal ritiro. Il primo maggio, anche di questa settimana, la notizia che il primo maggio potrebbe essere un altro tabù infranto, nel senso che si potrebbe cominciare ai negozianti a dare il permesso di aprire, e quindi piano piano, diciamo, potrebbe essere un giorno in cui si lavora regolarmente, non più la festa dei lavoratori. Ce ne sono, insomma, di notizie. Siete d'accordo, non siete d'accordo, cosa pensate dei fatti di questi giorni? 800 24 00 24. Thomas, se tu ne hai una in mente, giusto se mi dai il titolo, che poi abbiamo questo collegamento extraplanetario tra poco. Ma mi piacerebbe comunque citare ancora la problematica emergency, perché comunque è ancora molto attuale e penso meriti comunque un ragionamento attento, perché quando ci sono comunque associazioni neutrali, associazioni che lottano per i diritti delle persone, è sempre bene, cioè, fare di tutto perché abbia, insomma, l'onore che meritano. E la possibilità di lavorare. Bene, allora, quindi questa è per il momento la riflessione di Thomas Leoncini, poeta, scrittore, opinionista. Sentirò tra pochissimo le vostre, al numero verde 800 24 0024, però dicevo, questo collegamento con un altro pianeta. Riflessioni da Marte. Perdonerete, cari terrestri in ascolto, se questa settimana, guardando come sempre il globo terracqueo da quassù, da Marte, sono riuscita effettivamente a vedere ben poco, sporgendomi dal mio balconcino marziano. Una nube densa impediva di scorgere le inesauribili bizzarrie umane. Colpa di questo vulcano islandese che, dopo una pausa di riflessione, no, come si dice nelle relazioni sentimentali, si dice una pausa di riflessione. Dicevo, dopo una pausa di riflessione di 187 anni, si sa che c'è chi riflette di più, chi riflette di meno, si ridesta questo vulcano. E la prima cosa che fa è un rutto colossale. Insomma, si sa che l'educazione, il bon ton meglio, non è cosa da vulcani. E quindi scompiglio generale, aerei che non volano, conduttrici bloccate in terra straniera e così via. Ma se mi permettete, al di là di tutte le considerazioni esistenziali che si sono fatti, no, su questo evento, e cioè che per esempio l'umanità si illude di controllare la natura, oppure l'effetto farfalla conferma agli esseri umani che tutto è collegato, no? Si dice che il minimo battito d'ali di una farfalla sia in grado di provocare un uragano da un'altra parte del mondo, no? Sapete l'effetto farfalla. Oppure si è detto l'eruzione del vulcano e le sue conseguenze sulla mobilità umana ci insegna una volta di più l'indispensabile pazienza delle cose. Bene, al di là, dicevo, di tutte queste riflessioni filosofiche, metafisiche, il vero assillante interrogativo è: ma chi cavolo gli ha dato questo nome irrimediabilmente impronunciabile a questo benedetto vulcano? Eyjafjallajökull, che sembra, diciamo così, pure una presa per il di dietro. Forse, se non avessero dato un nome così lungo e impronunciabile al vulcano, gli gli allarmi sarebbero stati dati prima, eppure le misure di contrasto. Ma finché uno pronuncia "Eia falla cool", è già successo, direi, l'irreparabile. Ma per fortuna le buone notizie non mancano mai. Ebbene, la cacca delle balene aiuta l'ecosistema. Eminenti ricercatori proprio così hanno infatti dimostrato che gli escrementi baleniferi puliscono gli oceani e mitigano in parte l'inquinamento marino. Insomma, quando si dice che la pupù è santa. Grande Moby Dick, dove saranno tutti gli amanti che hai? Dolce Moby Dick, nessuno ti ha baciato mai. E ritorniamo noi coi piedi per terra. Vulcano, insomma, continua, insomma, nella sua azione, nei suoi rutini, e poi capiremo come gestire questa situazione imprevista. E certo, è veramente straordinario, è stato, per me lo dico che sono stata anche coinvolta direttamente, mai avrei pensato che un vulcano che erutta in Islanda possa poi creare tutte queste ripercussioni e bloccare così la circolazione e costringerci a un momento di, come si può dire, come si dice, di riflessione. Beh, intanto però vorrei andare alle vostre riflessioni direttamente al numero verde 800 24 00 24 per chiedervi quali sono i fatti che vi hanno colpito, e inizierei da Ferdinando da Milano. Ferdinando. Buongiorno Roberta. Buongiorno Ferdinando. Io ti seguo, sono già intervenuto varie volte. Vorrei fare una riflessione su quei due bambini di Gela in Sicilia, che la mamma sì. Sembrate che ha ammazzato in mare. Tra l'altro erano ammalati e le istituzioni, siccome quella si era separata, le istituzioni sono ferme, anche i parenti sono fermi. Se riusciamo attraverso te a sensibilizzare chi ha in casa delle persone che non stanno bene, a non lasciarli soli, per l'amore di Dio, perché poi dopo si vede quello che è successo. Tutto qua. Ti ringrazio tantissimo e ti faccio tanti auguri. Grazie Ferdinando, ringrazio te di questa capacità empatica, di dolcezza anche di fronte a una tragedia come questa, di Ferdinando, perché magari il primo così impulso, la prima reazione potrebbe essere quella abbastanza prevedibile di dire guarda queste madri o questa madre, no, che uccide i propri figli, prima li mette al mondo, poi li distrugge, l'insensibilità. Invece Ferdinando ha messo in luce proprio un po' il punto, a parte che gli infanticidi da parte delle madri sono sempre un reato, un omicidio che è completamente a parte rispetto al resto dei delitti. Ma in questo caso è vero, di questa madre trentenne che si era buttata per suicidarsi insieme ai figli di 9 e 2 anni nel mare di Gela, è vero che questi bambini erano malati, tutti e due autistici. E questo non ovviamente per giustificare, ma per capire che tragedia c'è dietro questo fatto così drammatico. Il marito l'ha lasciata da qualche mese, come qualche volta, diciamo, lo fanno i padri quando ci sono delle difficoltà in famiglia, quando i figli non sono come si vorrebbero, quando hanno dei problemi. Diciamo che se la danno a gambe alcuni, poi ce ne sono altri amorevolissimi, ma diversi, insomma, quando la barca comincia ad affondare, mollano e vanno. E questa donna si è ritrovata da sola, da un punto di vista economico e da un punto di vista soprattutto psicologico, a dover sostenere questa situazione così dura, così pesante. E mi auguro ovviamente poi che i magistrati terranno, i giudici presente anche questa situazione, come bene diceva Ferdinando, e lo ringrazio. Sempre numero 800 24 00 24, c'è Mario da Crema. Oh, buongiorno Roberta. Buongiorno Mario. Io volevo intervenire sulla situazione che si è venuta a creare tra Fini e Berlusconi, sì, per dire la mia, e in questo senso come la vedo io? Io la vedo come un matrimonio fallito, dove c'è una moglie che pensa di accasarsi e di aver trovato la tranquillità economica e poi scopre che invece un marito è fedigrafo, la tradisce e la ripudia. È il marito che acquisisce la dote della moglie per poi mandarla via. Cioè, mi spiego. Senti, meglio. Senti, la moglie Fini sarebbe moglie e... Sì, esatto. Fini, marito Berlusconi. Fini ha fatto un calcolo. Fini ha detto: io sono in una situazione dove più avanti di così non vado. Ho un partito. Se mi associo con Berlusconi, il mio partito diventa forte. Io divento il delfino di Berlusconi. Lui andrà al Quirinale. Io diventerò presidente del Consiglio. Se consideriamo che Fini è partito da una situazione di delfino di almirante, dove non aveva molte prospettive future, si ritrova ad essere invece presidente del Consiglio di un partito che di destra non lo è più, ma si avvicina sempre al centro. Lui ha fatto i suoi calcoli. Andava bene, solo che c'è stato il terzo incomodo, l'amante la è Umberto Bossi che è intervenuto e ha rotto un po' gli equilibri, ragion per cui adesso Fini si sente tradito, dice scusa ma adesso chi sarà il prossimo di Berlusconi, non sarò certo più io, e allora comincia a tirare un po' i remi in barca e vedere di recuperare parte di quella dote che ha portato, la dote è il suo partito, lui ha portato dei colonnelli che i suoi colonnelli non sono più, adesso tutti lo stanno ripudiando, la Russa, Gaspari, tutti con Berlusconi, non so se è il fascino del potere economico che ha esercitato questa persona su di loro o qualcos'altro, io non sono un finiano, non sono di destra, però onestamente devo dare atto a Fini che è l'unico che ha avuto il coraggio almeno di dire in un congresso pubblico insomma mi stai sulle scatole, basta, questo non va più, questo modo di fare, è stato l'unico, mentre tutti gli altri sono accondiscendenti verso il sultano e dicono sempre sì signore, quindi sotto questo aspetto la politica forse sta cambiando, qualcosa di diverso sta entrando in questa nostra società, che è qualcosa che io vedo positivo, anche se poi il Berlusconi la traduce tutto in effetto mediatico, perché mette tutto in televisione, mette tutto in piazza, mentre una volta certe cose erano più diplomatiche, si dicevano e non si diceva, la politica è l'arte del dire e non dire, mentre oggi siamo diventati proprio in modo sfacciato, dice beh io faccio così, tu fai quello che vuoi, abbiamo visto gli ammiccamenti, le battute durante quel congresso che insomma facevano un po' sorridere, perché sembravano due in un pollaio che si azzuffavano per la conquista delle gallinelle che c'erano là dentro. Senti Mario, a parte questa metafora diciamo questa metafora coniugale anche in qualche modo avicola, ecco diciamo, però ti volevo chiedere, visto che hai questa analisi così lucida, poi condivisibile o non condivisibile un'altra cosa, Mario, ti volevo, leggevo proprio ieri appunto di ritorno da Londra in questi giorni, poi avevo seguito un po' la campagna elettorale invece in Gran Bretagna, no? Ci sono i tre candidati, sono l'uscente laburista primo ministro Brown, poi c'è il conservatore Cameron e poi c'è questo terzo incomodo, non so se sia l'amante o non l'amante, insomma gioca però per conto suo, Clegg, liberal democratico, che è in ottima posizione ed è una situazione molto inusuale per la Gran Bretagna, non so da quanti decenni a questa parte, e parrebbe, qualche analista ha detto che questo potrebbe significare, intanto vi ricordo che le elezioni politiche in Gran Bretagna ci sono il prossimo 6 maggio, potrebbe significare la fine improvvisamente o il declino del bipolarismo anche in Gran Bretagna, dove da tanti decenni, no, laburisti e conservatori si fronteggiano, che sia anche una situazione che riguarda l'Italia. Allora, io non credo che in Inghilterra, io adesso non sono un attento osservatore della politica inglese, l'ho seguita un po', però i liberali ci sono un po' sempre stati, anche se sono stati una minuscola, proprio minima, che non ha inciso completamente nella vita politica, però io credo che questo non sia la fine del bipolarismo in Inghilterra, perché è molto radicato, loro sono diversi da noi, la plomb inglese è una cosa proprio oramai, guarda, loro hanno quei due partiti e quei due si tengono. No, ma questo per rilanciarti la palla invece sulla situazione italiana, visto che tu no. Sì, io credo che qui in Italia sia diversa la situazione. In Italia diciamo che ogni tanto esce il terzo incomodo, è venuto fuori con Di Pietro, prima con la Lega, scusa, è venuto fuori con la Lega che ha cominciato a prendere piede, ma perché poi c'è stato anche il Di Pietro, poi il Beppe Grillo? Perché la gente, essendo stanca, basta che trovi un masaniello che lanci la prima pietra e si aggrega, perché comunque vadano le cose, quando piove si dice governo ladro, cioè, ma di qualunque natura sia, perché abbiamo visto il governo di sinistra, abbiamo visto di destra, secondo me oggi non esiste più né la destra né la sinistra, ma esiste un buon modo di governare in modo razionale e il modo di governare in modo irrazionale, dove ci si lascia andare e ci si lascia prendere dagli eventi. Mario, è quello che sta succedendo con Berlusconi in questo momento. Mario, come dimmi, va la barca la va. Dimmi solo di cosa ti occupi nella vita, poi ci salutiamo. Ma io sono stato direttore amministrativo, adesso purtroppo la mia azienda è andata in crisi e faccio il conducente di mezzi pesanti. Però Mario, ho passato dalle stelle alle stalle. Sei stato capace, esatto, così di riciclarti con coraggio e con uno spirito che mi piace molto. Ho avuto anche coraggio, è vero. Complimenti Mario. Grazie. Ciao, grazie, buona continuazione. Roberta. Ciao. Thomas Leoncini, quindi di tutto ciò che è stato detto c'è qualcosa che vuoi dire? Sì, ma io penso innanzitutto che le elezioni in Inghilterra le vincerà chi punta, e Obama insegna anche in America, chi punta sui giovani, su internet, sulla grande comunicazione di massa, come ha fatto presidente americano, e in questo vedo molto avvantaggiato Cameron, perché sia su web sia su comunque sull'opinione pubblica dei giovani ha fatto molto di più, sta facendo molto di più come campagna elettorale. Per quello che riguarda invece l'Italia, io credo che Berlusconi, da grande comunicatore qual è, e lo è sempre stato, su questo sia chi lo ama che chi lo odia lo deve dire, ha riconosciuto in Fini qualche anno fa un pericolo enorme, perché comunque Fini è una persona di cultura, una persona che sa comunicare anche lui in maniera completamente diversa, ha riconosciuto la pericolosità e ha in qualche modo spinto per un'alleanza. Però poi ovviamente tra due teste di serie, come si dice nel calcio, come si dice negli sport, è difficile poi realmente avere feeling. E allora in questo è stato molto bravo, giudizio apolitico, ma è stato molto bravo Berlusconi, perché dichiarando pubblicamente durante addirittura un congresso una cosa del genere ha un po' messo nella condizione di risposta e quindi provocazione Fini, che ora dipende tutto da come appunto Fini se in qualche modo avrà lo scivolone nei confronti di Berlusconi, cioè dirà la sua allontanandosi definitivamente, cosa che però non credo che farà, perché gli interessa appunto di rimanere, credo, presidente della Camera. Però io credo sia stata una provocazione pubblica per far vedere: o tu diventi veramente il mio terzo o quarto, oppure te ne vai. Basta. E questo comunque ha fatto una grande azione personale. Senti, allora adesso continuiamo a sentire anche gli altri ascoltatori, sempre il numero verde 800 24 00 24, poi ti volevo chiedere se sei tifoso di calcio, magari ci pensi intanto, così poi andiamo anche su altri argomenti. C'è Adele da Firenze. Sì, buonasera. Buonasera Adele. Comunque volevo dire, scusa Adele, mi sono dimenticata all'inizio, appunto fresca dal confino straniero, di dire, come in ogni puntata, cos'è che ci conferma ogni volta che non ci sono più le mezze stagioni. Devo dire, poi ti chiederò che tempo c'è a Firenze, Adele, che a Londra hanno fatto 12 giorni di sole continuativo, sono tornata abbronzata. Torno qui, il diluvio dalla Toscana fino a Milano ieri, ancora oggi grigio, poi speriamo che Giuliacci ci dia un po' di speranza, insomma, questa primavera. Speriamo. Che non arriva. Non ci sono più le mezze stagioni, quando a Londra c'è il sole e in Italia, il bel paese, non il paese del sole, non c'è più. Firenze come andiamo oggi? È variabile. Io abito nel Chianti. Insomma, è variabile. Che situazione privilegiata, diciamo così, poi non so il resto. Adele, qual è la tua notizia? Ieri sera sono rimasta colpita da questa storia del manifesto che hanno fatto a Salerno per commemorare il 25 aprile. Sì. Sono rimasta colpita perché se da un lato sento che c'è un recupero di qualcosa che comunque che io condivido, nel senso di dire, ma in fondo io sono fra quelle persone che dice, beh, per fortuna sono capitata di qua dal muro dopo la guerra, e quindi il recupero, diciamo, dell'operato dell'esercito americano mi sembra una cosa importante. Però dall'altro lato ci sento qualcosa di estremamente provocatorio, quasi a voler negare una pagina anche di storia italiana. Oh, certo. Comunque Adele, perdonami se ti interrompo brevissimamente, solo per spiegare a chi non sapesse questa storia appunto dei manifesti che sono apparsi nella città bellissima, tra l'altro, di Salerno, voluti dal presidente della provincia Edmondo Cirielli del PDL, che è stato accusato appunto di cancellare un po' il concetto, la parola di resistenza, la lotta partigiana antifascista, e di invece esaltare soltanto l'operato delle truppe americane. Questo è quello che ha creato appunto polemica. Sì, cioè, lo sento davvero come un atto provocatorio, un po' legato, un po' come, insomma, ne faccio un discorso un pochino più generale, nel senso che in questo momento la destra che ha vinto le elezioni, quindi mi riferisco alla destra, quella legata soprattutto alla Lega e anche a Berlusconi, non a Fini, perché Fini lo sento un po' diverso in questo momento, cioè, lo sento un po' come a voler dire sempre e soltanto la loro, la sento proprio molto, molto prevaricatoria, ecco, sinceramente è una cosa che mi lascia molto perplessa, mi preoccupa anche, devo dire, in certi momenti, perché dico, ma è come se si potesse, come se non si potesse avere un pensiero diverso da loro, pensiero unico, dice Adele. È chiarissimo il tuo di pensiero, cara Adele da Firenze, ti ringrazio e passo invece a Pescara, quindi adesso siamo in Abruzzo con Bruno, sempre al numero verde 800 24 00 24. Prego Bruno. Buongiorno Roberta. Buongiorno Bruno. Buongiorno. Dunque, volevo ringraziare Radio 24 di avermi dato questa opportunità e nel frattempo salutare l'Abruzzo e i nostri cugini aquilani. Molto, molto volentieri, Bruno, molto volentieri. Dunque, io stamattina in una trasmissione televisiva ho ascoltato un dibattito e c'era qualcuno che si stracciava le vesti perché sembrerebbe, le premetto che non sono un elettore di destra e quindi non sono né berlusconiano né pignano, qualcuno che si stracciava le vesti perché sembra che il nostro presidente il presidente della Camera voglia andare in alcune trasmissioni televisive tipo l'Annunziato o Ballarò e quindi grande scandalo per questa cosa. Ma il nostro presidente del Consiglio, a lei, agli ascoltatori, non risulta che durante la campagna elettorale l'ha invasa di sue presenze da tutte le parti, dalle trasmissioni di politica, di sport, di mangiare, di tutto, insomma. Mi sembra una cosa, vorrei sapere che cosa ne pensate voi di questa cosa, insomma. Da che pulpito venga la predica, insomma, il Presidente del Consiglio? L'ha invasa la televisione sia con le sue televisioni che con le televisioni della RAI, eccetera eccetera. E poi volevo dire un'altra cosa, mi scusi, prego. Roberto, e poi chiude, se un piccolissimo sondaggio, che cosa ne pensano gli altri ascoltatori e voi del fatto che nessun gruppo parlamentare di destra, di sinistra, diciamo, non propongo una legge per cui i nostri parlamentari dopo due legislature vadano a casa a fare quello che facevano, né se ne guardano bene tutti quanti, perché così si eviterebbe il sottobosco, le clientele e quant'altro, ma nessun parlamentare, penso e non mi risulta, abbia avuto il coraggio di presentare una legge in questo senso qua, come in America, il presidente americano dopo che ha finito il suo mandato torna a coltivare nocciolino oppure a fare l'avvocato oppure fare qualche altra cosa. Sento la sua risposta per radio, sì. Grazie di avermi dato questa opportunità. Grazie a te Bruno di aver chiamato, perché se no senza di voi le trasmissioni non hanno molto senso, almeno quelle di dialogo con gli ascoltatori e di confronto. Questo sondaggio lo lascio agli ascoltatori, cosa ne pensano? Potrebbe essere un'ottima idea per molti versi, per altri dicono però uno con gli anni matura un'esperienza politica e poi dovrebbe essere più competente. Ma insomma, lascio a voi la risposta. E sull'altra questione, fin in TV, al di là del pulpito da cui venga o non venga, direi che ognuno invitato in una trasmissione può essere liberissimo ovviamente di essere presente. Adesso non so proprio nel particolare il fatto che uno abbia ricopre il ruolo di presidente della Camera, se questo comporti il fatto di non essere presente in trasmissioni televisive, non credo che sia così vincolante. Ecco, io dico che chi viene invitato in una trasmissione ha tutta la libertà di accedere a questa trasmissione. Thomas Leoncini, se tu riesci a essere molto breve, così facciamo quest'altra pausa per la pubblicità, poi ritorniamo insieme agli ascoltatori. Su questa cosa in particolare. Sì, appunto, riguardo a questi temi, no, consiglio a tutti di leggere nel mio libro La nostra vita è ora. Proprio la parte che, diciamo, il testo delle canzoni senza note, il titolo Un politico, che racconta praticamente quello che poi è attualità proprio pura attuale, e un prete distratto proprio perché si collega a un altro tipo di attualità contemporanea. Allora magari, sì, dimmi. Poi chiudo, Fini secondo me da Presidente della Camera e da carica dello Stato importante che ci rappresenta tutti comunque dovrebbe avere il diritto e l'obbligo e il dovere, se vogliamo, di andare nelle trasmissioni a dire la sua dopo questo. Sorge anche oggi un nuovo sole, mi basta infilare cravatta e giacca, affilare sorrisi contro il timore e mietere nettare di demagogia nell'ormai putrida bisaccia. Non penso tu mi possa giudicare malato, i tuoi stessi bisogni fisici e affettivi. Andiamo insieme, c'è il mercato, dove vendono pieni di fandoni e speranze e sostantivi. In fondo abbiamo la stessa direzione, che ti importa se io vendo e tu acquisti? Ma ti dirò che sei un coglione, anche se prometto le stesse cose ad ogni cambio di stagione. Ci vuole tempo per cambiare il paese, forse anni, decenni, millenni, o un mese, ma tu non sai quanta gente devo mantenere. Mogli, amanti, trans, uomini e bambini, tutti chiedono riscontro. Abbi pietà, elettore, a cambiare mestiere, non son pronto. Ne ho letto solo un pezzo di questa poesia di Thomas Leoncini, mio opinionista estemporaneo di oggi, dal suo libro La nostra vita è ora. Ho approfittato di questa pausa, Thomas, per cercare questa poesia che avevi segnalato, per dire insomma che è molto legata all'attualità. Avevamo finito con, ancora mi sembra, sì, la politica, con l'ascoltatore di prima, con Bruno che parlava appunto di Fini in TV, e tu appunto hai detto la tua opinione rispetto all'accedere appunto a trasmissioni in cui può essere invitato. Ritornerei ancora sul numero verde 800 24 00 24. Roberta Giordano sempre con voi, dopo essere stata rimpatriata dalla regina ieri stessa da Londra e prigioniera della nube vulcanica per diversi giorni, ed eccomi qui con voi a essere aggiornata da voi stessi questa volta in modo particolare, no? Visto che non si può stare sulle notizie allo stesso modo capillare anche con le agenzie dall'estero, anche se i mezzi tecnologici sono, io ero lì giusto per 3 giorni e non ero così attrezzata, ma e poi dopo sono diventati 12. C'è Oliviero da Milano. Oliviero. Sì, ciao Roberta. Ciao Oliviero. Ascolta, ti volevo parlare a proposito della nube vulcanica di questi giorni, dei disastri che ha fatto nel cielo europeo. Sì. Vorrei che noi riflettessimo un attimino circa le responsabilità dovute alle compagnie aeree, ai tour operator, riguardo delle leggi assurde che obbligano i tour operator, appunto, le compagnie aeree a pagare tutte le spese inerenti al disastro di questi giorni. Mi sembra una cosa talmente assurda e fuori di ogni logica che vorrei che riflettessimo su questo. Tu lavori in una compagnia aerea, Oliviero? No, io lavoro in un'agenzia di viaggi, lo dico subito. Ecco, non sono un tour operator, sono un'agenzia dettagliante. Ho cercato di proteggere tutti i miei passeggeri e meno male sono andati tutti a posto. Però mi sembra una cosa talmente assurda questo, che il povero innocente tour operator che deve pagare magari 7 giorni extra di spese di viaggio dei passeggeri in vacanza alle Maldive, a Santo Domingo, a Sharm, per modo di dire, mi sembra una cosa talmente assurda. Oliviero, sai che rimani, è un punto di vista molto interessante il tuo, perché mentre ero appunto lì bloccata a Londra in questi giorni, mi chiedevo, uno, se mi avrebbero rimborsato il biglietto aereo, se avrei potuto almeno cambiarlo riuscendo a entrare con molte difficoltà nei siti internet delle compagnie perché sono state prese d'assalto, e due, mi chiedevo anche tutte queste spese d'albergo aggiuntivo che non avevo previsto, se appunto le stesse compagnie mi avrebbero rimborsato. E da una parte ci speravo, dall'altra pensavo, in effetti... Anche per loro è stata una catastrofe questa, anche per le compagnie aeree, per esempio 250 milioni di euro al giorno hanno perso, è stata una catastrofe naturale, quindi non è colpa degli uni e degli altri, anche se speravo in questo rimborso. In realtà poi ho potuto avere il cambio del biglietto, ma non penso proprio che l'albergo potrà essere rimborsato. Ed è interessante quello che dici, perché effettivamente anch'io sono in una posizione un po' così sospesa nel decidere o nel capire a chi dare ragione, perché è un evento così imprevisto e quindi non è colpa né degli uni né degli altri. Però leggevo questa cosa interessante dalla Francia, e questa è stata la soluzione che ha trovato il governo francese. Il Ministero degli Esteri francese ha stanziato 1 milione di euro per aiutare, quindi il governo, per aiutare i propri concittadini rimasti bloccati fuori dal paese a causa dello stop dei voli per ceneri del vulcano islandese, quindi alcuni utilizzi possibili sono il pagamento di parte delle spese di soggiorno, l'acquisto di cibo, il prolungamento di un visto. Ecco, questa è stata la soluzione, Oliviero, che ha trovato la Francia. Sì, in Francia, sì, in Italia non penso che si trova una soluzione di questo genere. No, non credo. Si dirà, cavoli vostri, arrangiatevi. Sarebbe come dire a un certo punto a tutti gli automobilisti in colonna il 5 d'agosto sulla Milano Salerno, dicendo: signori, se siete in ritardo dovete chiedere un rimborso all'autostrada. Sì, è pazzesco, sì. È assolutamente improponibile, sei d'accordo? Ma in parte sì, in parte non lo so, te lo dico molto sinceramente, proprio perché essendo stata anch'io coinvolta in questa cosa non so bene dire, ma non per una questione di interesse personale, proprio onestamente lo dico. Da una parte ho avuto io il danno e chi è rimasto bloccato, ma dall'altra parte le stesse compagnie aeree, il tour operator, insomma questa storia dei rimborsi. Mi piace la decisione che ha preso lo Stato francese, sicuramente è un investimento. E comunque Roberto, 1 milione di euro non serve no, a sì, in questo caso. Sì, eh? Sì, giusto così, talmente sono state tante le persone, non so, per pagare gli alberghi, il cibo eccetera, se possano essere sufficienti, però mi sembra uno spunto anche questo interessante, come la tua stessa opinione. Allora auguri Oliviero, non so. Grazie mille, anche a te. Ciao, buon lavoro, buona continuazione. C'è Tino da Milano. Sì, buonasera signora. Puoi chiamarmi Roberto, signora non mi piace, Roberto, un po' l'orticaria. Sì, grazie. Sì, ha ragione, sì, di sì. Berlino mi veniva, Giordano. E anche del de tu, tranquillamente. No, del tu, per io carità. Sono un uomo anziano, ormai da noi si usava. Quindi ci diamo del voi, reciprocamente? Sì, oppure diamoci del tè. Del tè, tè, Tino, tè, alla toscana romana. Tè, sì. Tino, qual è la tua notizia? La vostra notizia? Sì, no, volevo parlare della questione maggioritario e proporzionale. Ci hanno fatto una testa pera tra il maggioritario e il proporzionale. Alla fine tutti decisi, gli italiani hanno detto ma sì, sia per il maggioritario che almeno i governi durano. Che è un po' misto, ecco, diciamo, il nostro, non è proprio quelli puri. Però ha dato a Berlusconi una grande maggioranza, sì. Quindi possiamo infischiarcene della collaborazione di Fini con i suoi 10 seguaci. 11. O 11, farà 12 con lui. Ecco. E si potrà andare avanti, io penso. Questo è Calderoli l'ha definita, è uno dei creatori, l'ha definita la legge porcata. Sì, il Porcellum. Sono andati su una settimana a Lorenzago di Cadore per decidere cosa fare. Hanno fatto il maggioritario, che sta funzionando a quanto pare, e niente, era una porcata. Invece si è rivelata che non era affatto una porcata. Abbiamo una maggioranza stabile, malgrado le pazzie di Fini, e adesso stiamo a vedere cosa succederà. Tino, allora stiamo a succedere cosa si vedrà, invece stiamo a vedere cosa succederà, e vorrei sentire anche l'opinione, grazie Tino, di Claudio invece da Latina. Buongiorno Roberta. Buongiorno Claudio. No, niente, io in merito a tutta questa discussione che verte sulla, diciamo, frattura che c'è all'interno della maggioranza, sì. Ecco, ci sono adesso segnali da parte della Lega che se si andrà a rottura sarà il caso di anticipare le elezioni. Quindi ancora una volta magari un grosso onere, un impegno per tutta la società, oltre che economico, eccetera. E dovremo attendere che si facciano quelle riforme che si sta aspettando da tanto tempo. Si è sospeso la riduzione dei consiglieri comunali, di ridurre le tasse, di ridurre molti enti che sono soltanto, diciamo così, fra virgolette, a profitti di altre istituzioni. Le province, eccetera. Per esempio, no? Ma certo, da tempo. Cioè, voglio dire, la sofferenza che il cittadino ha, di, come me, un lavoratore dipendente, insomma, che deve perseguire tutte quelle utilità per la famiglia e non ce la fa perché purtroppo la situazione è quella che è, voglio dire, uno ha delle attese per vedere migliorato la situazione generale della propria società e di dove vive e quant'altro. Quindi ci sarebbe un danno, insomma, se si andasse alle nuove elezioni. Danno, poi c'è da dire, insomma, che c'è stato un referendum qualche anno fa in cui il popolo si è espresso dicendo che voleva esprimersi, cioè voleva che venisse restituito il diritto del voto e che non venisse accentrato nelle stanze dei partiti. Anche questo, voglio dire, mi sembra una mezza beffa, voglio dire, insomma, c'è chi egemonicamente gestisce le volontà di tutti, e questo non lo so fino a che punto come democrazia può funzionare. È vero, come diceva il precedente ascoltatore, che bisogna avere una stabilità, una certa tranquillità anche nella conduzione, però ecco, si verificano tutte queste situazioni che lasciano perplessi, ma non è peregrina neanche, voglio dire, la rottura di rottura fra virgolette, le considerazioni di Fini poi alla fine sono comuni a tanti altre espressioni ideologiche, se vogliamo definire così, di molti italiani, cioè nei riguardi degli extracomunitari, nei riguardi di come viene gestita, diciamo così, il credito, tante cose, cioè l'uomo al centro di tutto. Questa è la cosa importante, quindi restituire dignità a tutti con moralità, con un moralismo che si è perso, e che io adesso mi sto un po' dilungando, ma è veramente un moralismo che si perde, moralismo non nel senso bigotto. No, parliamo di etica, ecco, di etica, certo. Di senso civico che viene meno, ecco. Del bene comune. Grazie Claudio. Thomas, in attesa di sentire ancora gli altri ascoltatori, preferisci commentare la vicenda Balotelli, chi deve pagare il vulcano? Sarò molto breve. Mi devo preoccupare io sempre quando sento che uno dice sarò breve. Vabbè, di pure voglio Thomas. Fare la tua antitesi sul vulcano, scusami, ma è anche il mio mestiere fare l'antitesi, nel senso che io spezzo una lancia in favore del vulcano, perché la natura non ne può più niente. per farci sentire che è più forte dell'uomo, perché ogni tanto l'uomo si dimentica che siamo delle pedine in mano, insomma, in confronto al mondo intero, e quindi è giusto che la natura, stufa di tutti questi abusi, di questi inquinamenti, in qualche modo o erutta o manda quel paese un po' qualche abitante. Quindi alla fine è anche uno sfogo, diciamo, chiamiamolo così, dai. Diciamo che ogni tanto anche questi imprevisti, se non creano vittime, ovviamente, nel senso proprio, cioè, ma ogni tanto si può, arricchisce anche, dico una cosa grossa, arricchisce anche la nostra vita, perché una cosa così è un'esperienza, non l'avranno fatto tutti nei secoli, no? Ho fatto anche quell'esperienza, ci si è fermati, ci si è trovati a dover affrontare una situazione nuova, diciamo che insomma, se non ci sono cose drammatiche, no, può essere... Può essere senza appunto conseguenze drammatiche come morti, come devastazioni, certo. Ora non voglio dire i terremoti, sono un altro discorso, però insomma anche un ricordo, come si dice, una lampadina che si accende, da dire guarda, però la natura, noi stiamo qui a fare 100.000 progetti, alla fine basta che la natura si ribella una volta e ci rovina tutto. Questo insomma è un po' il nesso. Senti, però, adesso Thomas, scusa, a proposito di natura, io adesso voglio sentire il mio esperto al quale dedico, diciamo così, con una specie di auspicio questa melodia. Prima rosa rossa è già sbocciata e nascon timide le viole mammole. Ormai la prima rondine è tornata, nel cielo limpido comincia a volteggiare. Il tempo bello viene ad annunciare. Aprite le finestre al nuovo sole. Ma dov'è questo sole, Colonnello Giuliacci? Ma quale sole? Diciamocelo. A Londra, sì. A Londra 12 giorni di sole. Mi sono abbronzata a Londra e qui torno e non si può. E vabbè, ma in compenso ti sei presa le ceneri. Che sì. Tra l'altro sono magneti che si attaccano alle monetine. Sì. Allora, beh, di cosa possiamo dire? In effetti l'avevamo detto che sarebbe stata una primavera un po' piovosa, perché era, direi, il seguito un po' di quello che era stato l'inverno. Non si poteva cancellare, non si potevano cancellare le cause che avevano fatto sì che l'inverno fosse stato piovoso in 4 e 4 8, no? Quindi la primavera è seguitata da questo cliché. Cosa possiamo dire? Oggi è ancora una giornata un po' così così, diciamo, sta migliorando decisamente al nord, ma qualche rovescio sulle Alpi dobbiamo metterlo in conto nel pomeriggio, qualche rovescio in quasi tutte le zone del centro-sud. In questo momento sta piovendo su quasi tutta l'Italia centrale, no? Qualche rovescio lo vedremo, sì, anche sulla Calabria e Sicilia, eccetera. Domani è una giornata migliore, già oggi è migliore rispetto a ieri, domani sarà migliore rispetto a oggi, nel senso che sì, diciamo al mattino avremo pochi fenomeni, al pomeriggio dei rovesci qua e là, sulle Alpi, sulle zone interne del centro, la Calabria, Lucania e sulle isole. E poi è finita qui, ma non proprio, perché lunedì, martedì ancora tempo così così, soprattutto al centro-sud, e per poi, guarda caso, da mercoledì a venerdì, guarda bel caso, tempo su tutta l'Italia. Ma guarda, siamo alla vigilia del primo maggio, sai, una festa importante. Ma adesso sembra che neanche più sia festa, tra poco, comunque, vabbè. Sì. Vabbè, però se già arriviamo a venerdì, giorno 30 aprile, già col tempo bello, ci sono possiamo, le premesse perché magari anche il primo maggio sia all'insegna del bel tempo. Che sia una premessa e anche una promessa, Colonnello Giuliacci. Certo, poi dico, maggio non credo che sarà così piovoso come è stato marzo-aprile, perché ormai maggio comincia a proiettarsi decisamente verso l'estate, quindi l'occasione di eventi piovosi sarà decisamente più ridotta. Colonnello Giuliacci, quindi c'è aperto, diciamo, un messaggio di speranza. Sì, un no? messaggio di speranza. Tu mi hai mandato hai messo una bella canzone che parlava di aprite le finestre, il primo sole, sole che entrava dalle finestre. Beh, io cerco di agevolare, di entrare dalle finestre, di uscire, basta che venga il sole. Grazie Colonnello Giuliacci, a te un fine settimana solare in ogni grazie, caso. Grazie Roberto, un saluto a te, gli ascoltatori, buongiorno. E adesso, prima ancora di confrontarci con Thomas Leoncini, con le vostre telefonate, anche se il tempo stringe, vorrei, allora, visto che è stato protagonista della nostra vita, in particolare appunto dicevo della mia, visto che sono stata bloccata all'estero, degli ultimi giorni, come parola di questa settimana io lancerei alla mia esperta Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma, proprio la parola vulcano. Vulcano, tu che sei vulcanica, Valeria. La parola vulcano, quella che ti ha bloccato, e tra l'altro continuiamo a usarla perché il nome di questo vulcano, il nome islandese, è impronunciabile. Sì, appunto, e quindi ecco che ci vuole proprio una bella fantasia. E infatti non viene quasi mai nominato, ma da quando è che chiamiamo i vulcani vulcani? Beh, insomma, non da sempre. Solo dal 500, la parola in fondo l'hanno scelta i colonizzatori spagnoli dell'America centrale. Quando sono arrivati lì hanno visto queste montagne che eruttavano fuoco e genialmente per indicarle hanno scelto la parola spagnola volcán, evocando sia l'isola di Vulcano nelle Lipari, dove per tradizione aveva sede il dio Vulcano, cioè il dio del fuoco. Quindi è stata una bella invenzione e poi dallo spagnolo è arrivata nelle altre lingue, anche nella nostra lingua. È divertente il fatto che gli scienziati nel Settecento hanno cercato di opporsi a questo nome mitologico e ne hanno proposti altri. Uno era Monte Fiammifero, però non ha avuto alcun successo. E ultima cosa, le espressioni nelle quali nominiamo la parola vulcano sono ancora tante, no? Diciamo che una persona è un vulcano quando è piena di entusiasmo, di energia, oppure che ha la testa come un vulcano, cioè ribollente di idee. Beh, adesso potremmo aggiungere che essere bloccati dalla nube del vulcano vuol dire passare l'esperienza che è capitata a te. Grazie Valeria Della Valle, grazie a non so se 3 milioni e passa di viaggiatori, di gente comune, insomma. Grazie Valeria Della Valle. Io la marziana in realtà l'aveva pronunciato Eia Falla Jökull, ecco, dove che insomma, però quella volta lo pronunci, poi lo chiami il vulcano che si fa prima. Chiedo a Thomas Leoncini, in questi 23 secondi che ci mancano alla chiusura, Thomas, vuoi fare una conclusione tua? Ricordo il tuo libro La nostra vita e ora, poeta, scrittore, lui dice canzoni senza note, di tutte le cose che abbiamo detto, che cosa ti viene da dire in pochi secondi? Mi viene da dire che grazie al pubblico, grazie a tutti, si può veramente cambiare qualcosa e tutto quello che è lo schifo, tutte le cose che si vedono intorno sono destinate a cambiare grazie a voi. Poi volevo ringraziare tutti, ringraziare te Roberta che mi ha invitato, ringraziare Angelo Branduardi e Mario Luzzatto Fegiz che hanno fatto le prefazioni al tuo libro. Il mio libro. E poi anche la bravissima scrittrice Romana Petri che è uscita in libreria adesso con Ti Spiego. E poi vi ringrazio tutti veramente, è stato un piacere, spero di ritrovarvi tutti presto. Il piacere reciproco, caro Thomas Leoncini, da Roberta Giordano. Non solo, come sempre, vi auguro sereni orizzonti a tutti, ma anche per una volta, diciamo, e viva il vulcano.